C. In un negozio di strumenti musicali. 1. Ascolta il dialogo. Dica, signora. Posso entrare con il mio cane? È molto educato. No, signora. Vede, qui i cani non possono entrare. C'è uno spazio in terrazza. Il suo cane può aspettarla lì. Scusi, non avevo visto l'avviso. Alfio, usciamo! Dai, sii buono! Alfio, lascia la mia sciarpa! Dammi la sciarpa! Dove vai? Ah, ecco, bravo! Ora stai qui, buono, e aspettami. Tieni, c'è anche un po' di acqua. Dicano, signore. Non siamo insieme. Scusate, vi ho visto qui insieme e ho pensato... No, no, io sto aspettando mia figlia. Serva pure la signora. Grazie. Senta, dove posso trovare questo spartito musicale? L'insegnante di piano di mia nipote ha scritto il titolo qui. Mi lasci vedere? Credo... Sì. Saliamo al piano superiore. Bene. Venga pure. Gli spartiti sono da questa parte. Sì, è fortunata, signora. Questa è l'ultima copia. Posso dare uno sguardo prima di acquistarlo? Prego, signora. Faccia pure con calma. Alfio! Smettila! Lascia stare le piante! Vattene via! Cattivo! Che disastro! Mi scusi, sono mortificata. Non si preoccupi, signora. Tutta la terra in terrazza! Mi lasci riordinare? Assolutamente no, signora. Stia tranquilla. Ci penso io. Per fortuna lo abbiamo lasciato fuori. Davvero?